Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno e buon sabato a tutti. Avete appena sentito una clip tratta da Il Santo, il film del 1997 con Val Kilmer, e la colonna sonora Out of Mind era dei Duran Duran. Nel film il protagonista, Simon Templer, difende la scienziata americana Emma Russell dai tentativi di un miliardario russo di rubarle la formula della fusione fredda, della fusione nucleare, una formula che lei stessa ha scoperto, e impadronirsi così prima della Russia e poi del mondo. Ora, sulla fusione fredda o la fusione nucleare, come preferisco chiamarla io, non c'è alcuna formula da scoprire, perché la formula già si conosce da tempo e funziona. Il problema è trovare le modalità per realizzarla. Il bello però di questo film è che già 20 anni fa aveva colto una verità dirompente. La fusione nucleare sarà la più grande fonte di energia pulita e a basso costo del futuro. E molto probabilmente negli anni, a partire da fra 20 o 30 anni, diventerà la fonte di energia preponderante. Pochi però sanno che una parte importante del lavoro scientifico per arrivare alla fusione fredda, alla fusione nucleare, viene fatto in Italia. In Italia abbiamo eccellenze come l'Istituto di Fisica Nucleare o come l'ENEA che stanno lavorando su questo e che ci danno un ruolo da protagonisti mondiali. Perché ne parliamo in una trasmissione come questa dedicata all'industria? Per due motivi. Il primo è che la fusione darà una risposta alle esigenze dell'industria che sarà sempre più energivora, anzi tutta la società sarà energivora. Il secondo è che tutte le commesse per le sperimentazioni della fusione fredda, ovvero il progetto ITER che prevede la costruzione di un magnete, il magnete più grande del mondo che si fa a La Spezia, e anche il tokamak di cui parleremo, il tokamak ci porterà subito 500 milioni di euro, ecco, tutte queste commesse sono una occasione imperdibile per riqualificare il sistema industriale italiano. Il fatto che qui si sia così avanti sulla fusione, insomma, genera un sacco di lavoro e genera anche know-how scientifico, tecnologico e applicativo che poi può essere utilizzato per vari ambiti industriali. Di tutte queste cose ne parliamo con i nostri ospiti, che sono Antonio Della Corte, che è un direttore dell'ENEA ed è capo del laboratorio di superconduttività. Buongiorno. Buongiorno. E Albano Bregagni, che è il presidente amministratore delegato di una di queste aziende, la Tratos, che fa cavi e fattura in quel di Arezzo 130 milioni di euro e che è coinvolta in tutto questo discorso. Poi ce ne sono varie altre: Ansaldo Nucleare, ASG, Simic, Mangiarotti, Walter Tosto, Della Tati, Oceman, Angelo Antoni, Zanon, Cecom, e chi più ne sa più ne canti. Buongiorno Bregagni. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, mi dica Della Corte, ho detto bene? Beh, dovremmo specificare meglio il fatto che la nostra fusione è calda, non è fredda, perché freddi sono i magneti che confinano il plasma nella fusione, ma la nostra fusione è molto calda perché, come lei sa bene, andiamo a lavorare con temperature dell'ordine dei centinaia. 150 milioni di gradi. Esatto. Il problema è contenere queste temperature e lo facciamo attraverso il magnete. Ma il problema è che la fusione nucleare, fino a pochi anni fa, fino a quando per esempio è stato fatto il film Il Santo, tratto da Simon Templer, fusione fredda veniva utilizzato come sinonimo di fusione nucleare. È verissimo, però siccome in un certo periodo si è parlato anche di fusione fredda come reazione non a temperature elevate ma a temperatura ambiente, la gente potrebbe confondersi, quindi abbiamo specificato, lei ha specificato che le nostre temperature sono dell'ordine di 150 milioni di gradi, e per contenere un plasma che si trova a queste temperature, non ci sono contenitori in grado di farlo, e quindi bisogna tenere questa massa calda sospesa dentro campi magnetici in modo che non tocchi il contenitore che la contiene, e questo si fa con dei magneti superconduttori. Comunque bisogna spiegare agli ascoltatori che cos'è la fusione nucleare. Sentite qui la scheda. Le reazioni nucleari che producono energia sono di due tipi. La fissione, in cui un nucleo atomico pesante si separa in due nuclei più leggeri, e la fusione, che libera energia in seguito alla combinazione di due nuclei leggeri in un nucleo più pesante. La fusione nucleare è alla base del funzionamento delle stelle e sulla Terra è già stata realizzata per la creazione della bomba H. L'energia da fusione nucleare è sostanzialmente pulita, cioè non è accompagnata dalla produzione di scorie, come accade invece nei reattori a fissione. Inoltre, i reattori a fusione non inquinano e utilizzano come combustibile l'idrogeno, praticamente inesauribile. In buona sostanza, si tratta dell'unica forma di energia che può essere davvero alternativa rispetto a quelle generate fino ad oggi da combustibili fossili, idroelettrico o fusione nucleare. Infatti, le energie create con biomasse, solare ed eolico possono sostituire solo una parte, e nemmeno tanto grande, di quelle generate con sistemi tradizionali. Perché la fusione nucleare avvenga, occorre avvicinare i due nuclei a una distanza estremamente ravvicinata, nell'ordine del milionesimo di miliardesimo di metro, in modo da vincere la loro repulsione elettrostatica. Per farlo, i nuclei devono essere confinati a densità e temperatura altissime, fino a 150 milioni di gradi. Il confinamento di temperature non può essere fatto da nessun materiale fisico, che verrebbe disintegrato all'istante, ma solo da campi magnetici. Il magnete più grande del mondo, che ASG sta costruendo a Genova, serve a questo. Al momento, il progetto più avanzato verso la realizzazione di energia elettrica da fusione è ITER, un reattore a fusione termonucleare che potrebbe sorgere a Cadarache, in Francia. ITER è un progetto internazionale cooperativo tra Unione Europea, Russia, Cina, Giappone, Stati Uniti d'America, Corea del Sud e India. L'Italia ha un ruolo centrale in tutto questo, forse addirittura il ruolo più importante. ITER è solo una macchina sperimentale destinata a dimostrare di poter ottenere le condizioni di guadagno energetico necessarie. DEMO è invece il prototipo di centrale in fase di studio dagli stessi partecipanti al progetto ITER. Allora, lei che è direttore del laboratorio di superconduttività dell'ENEA, ci spiega brevemente che cos'è la superconduttività e perché è necessaria per realizzare la fusione fredda, anzi la fusione nucleare. La superconduttività è la proprietà di alcuni materiali di non opporre resistenza al passaggio della corrente se raffreddati al di sotto di una certa temperatura. Quindi se prendo questi materiali, li raffreddo e li cortocircuito su se stessi, la corrente circolerà in eterno perché non si consuma. Mi consentitemi questa parola. E come mai serve per la fusione nucleare? Perché per la fusione nucleare sono necessari alti campi magnetici, e alti campi magnetici si possono ottenere solo con i superconduttori, perché con i materiali tradizionali come il rame dovrebbero essere talmente grossi e talmente energivori, cioè consumatori di energia, che tutta l'energia prodotta da una fusione nucleare sarebbe consumata dai magneti tradizionali. È interessantissimo, quindi l'energia può girare su questi cavi senza disperdersi. Ci sono tante altre cose molto interessanti che riguardano la vita di tutti noi. Dovete avere un attimo di pazienza perché adesso ci sono gli avvisi sul traffico e la pubblicità. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fabbrica 2.4. Eccoci in linea, ancora un po' di Duran Duran, che erano la colonna sonora del film Il Santo con Val Kilmer nel 97, che già 20 anni fa parlava della fusione nucleare. Stavamo parlando con Antonio Della Corte della superconduttività e lui è anche presidente del consorzio ICAS, che raggruppa lo stesso Enea e alcune aziende nel campo della superconduttività. Ci vuole spiegare con rapida sintesi che cos'è questo consorzio e chi ne fa parte? Allora, questo consorzio è formato dall'Enea col 52%, dalla Tratos col 24% e dalla Cryotech Impianti con un altro 24%. Questo consorzio è nato 7 anni fa per soddisfare la richiesta di cavi superconduttori per i magneti di ITER. Ecco, ITER, lo ricordiamo, è un progetto per nel 2025 fare in Francia a Cadarache la prima fusione nucleare. Dopodiché ci sarà invece un ulteriore progetto per realizzarla veramente, giusto, no, della Corte? Sì, ci sarà un progetto che seguirà questo, dal quale già stiamo studiando, che si chiama DEMO, e che è un progetto del vero reattore che dovrà produrre energia e mettere energia in rete, dopo che ITER aveva dimostrato la fattibilità del confinamento della fusione per tempi abbastanza lunghi. Comunque è una cosa assolutamente affascinante. Io sono convinto che ci arriveremo alla fusione nucleare e che questa potrebbe anche essere la fonte preponderante di energia. Se consideriamo questo, e se consideriamo anche il fatto, come abbiamo detto nella puntata scorsa, che verso il 2030-2040 tutte le auto andranno a energia elettrica, quindi il petrolio uscirà largamente di scena, vuol dire che cambiano radicalmente i paradigmi geopolitici e i paradigmi dei nostri stili di vita. Quello che dice lei è perfetto, perché il combustibile dei reattori a fusione è acqua, detto idrogeno che si trova nell'acqua, e quindi è un'energia democratica, perché tutti i paesi hanno disponibilità di questo combustibile. Probabilmente anche le lotte che ci sono attualmente nel mondo per il controllo del petrolio finiranno. Comunque io avevo sollecitato e sollecito ancora i nostri ascoltatori a scrivere ciò che pensano di queste cose alla nostra mail fabbrica@radio24.it, e sono arrivate 3 mail. Devo dire, non sono interventi che mi piacciono tanto, cioè noi li leggiamo ma non significa che poi bisogna lodarli o provarli. Per esempio scrive l'ascoltatore Roberto Pizzuti: non mi pare corretto dare degli stupidi a chi teme perdita di lavoro a causa robot. E poi date degli stupidi ai vostri colleghi di altre trasmissioni di Radio 24. Fate bene il vostro lavoro di informare a 360 gradi. Saluti, Roberto Pizzuti. Allora, primo, io non ho dato degli stupidi agli ascoltatori, ma ho detto che è stupida quell'argomentazione. E lo ripeto, l'argomentazione per cui i robot causano perdita di lavoro è solo stupida, perché altrimenti non si spiegherebbe come mai i due paesi più automatizzati al mondo, che sono la Germania e il Giappone, sono quelli che hanno anche la disoccupazione a un tasso minimo. La robotica, l'automazione consente di tenere le fabbriche qui, e quindi già per questo aumenta i posti di lavoro e aumenta la produttività e aumenta la ricchezza, quindi in realtà crea valore. Se si perde il lavoro è per altri motivi. Certamente è necessario riqualificarsi, studiare e avere soprattutto dei ragazzi che entrano nel mondo del lavoro che siano molto preparati e molto preparati in materie tecnologiche. Poi ce n'è anche un altro, che tale conquest@alice.it, che pensate un po', tira in ballo Marx. Questo qui dice: basta, non vi sopporto più, smettetela di raccontare favole. La produttività reale è aumentata esponenzialmente negli ultimi 2 decenni, sia in Italia che nel mondo, senza notevoli differenze. Il problema è come si misura la produttività, e poi tutto un bla bla su Marx, capitale e lavoro. Vabbè, sentite, se dovete mandare delle mail così, per favore, non scrivetele a vostra nonna. Poi invece amerigo.cancellieri@gmail.com dice: la produttività italiana è frenata dal carico inconcepibile di burocrazia di cui è gravata. E parla anche del disastroso stato della scuola e dell'università, anch'esse sempre più staccate dalle reali esigenze della società e delle aziende. Sulla burocrazia, che sia un disastro, siamo d'accordo. Sul fatto che freni la produttività, no, perché la produttività dipende soprattutto dagli investimenti in tecnologia e in ricerca e sviluppo. Invece è molto sensata la riflessione sulla scuola, perché è necessario che tutti noi diventiamo sempre più qualificati, sempre più competenti, e che studiamo sempre di più, se non sì che con la crescente automazione ci sarà un calo dell'occupazione. Chi fa perdere il lavoro è la mancanza di studio, non i robot. Gente, dovete studiare, mettetevelo in testa. Allora, sulla fusione nucleare c'è un progetto fantastico che è il DTT, Divertor Tokamak Test Facility, che è un progetto che ci sarà in Italia, che sta per entrare in funzione e che vede l'ENEA in posizione di punta, e praticamente è un cilindro ipertecnologico alto 10 metri e con raggio di 5, all'interno del quale saranno confinati 33 metri cubi di plasma alla temperatura di 100 milioni di gradi, giusto, no? Della corte? Corretto. E la cosa, ma sto cilindro dov'è che lo mettono? Ancora non è stato deciso se si metterà, in quale regione si metterà. Probabilmente ci sono già delle regioni che si sono candidate, però ancora non è stata fatta una scelta. Noi io sono terrorizzato, perché un esempio della stupidità italiana saranno tutte le proteste di chi dirà no, noi il cilindro non lo vogliamo. E il problema è che noi diamo anche retta a questa gente qua. Ma no, assolutamente no. Credo che una giusta informazione della popolazione farà capire chiaramente che non ci sono nessun tipo di rischio con la fusione nucleare, anzi la fusione nucleare ci libererà da tutti quelli che sono i problemi che abbiamo citato prima. Okay. Ma la cosa importante di questo DTT è che sarà completamente superconduttivo e che quindi sarà una macchina molto avanzata e che consentirà di provare dei componenti che affacciano il plasma, che sono molto critici per il reattore a fusione. Ecco, soprattutto la cosa importante è che consentirà di sviluppare tecnologie dirompenti con ricadute su tutto il sistema industriale. Questo ci affascina. Sì, assolutamente. Senta Bregagni, lei fa cavi e partecipa a questo consorzio sulla superconduttività presieduto da Della Corte. Come mai? Come mai? Perché quando è venuta la necessità di fare questi cavi superconduttori, il buon Della Corte ha pensato bene di rivolgersi a noi. Io inizialmente l'ho preso per un visionario, devo dire la verità. Poi l'ho seguito e abbiamo conquistato una bellissima commessa, è stata la costruzione insieme a Cryotech di Torino, la costruzione dei cavi per il progetto ITER, per cui adesso siamo interessatissimi a tutto quello che passa per la superconduttività, e in nome di questo abbiamo fatto pesantissimi investimenti. Per aiutarla un attimo con i suoi telespettatori, la storia dei robot che rubano il lavoro è incominciata nel 1800 con l'avvento dei telai. Ma sì, è una sciocchezza, dai, sono stupidaggini, lo dico e lo ripeto, e non se ne può più di sentire queste cose, documentatevi e poi parlate. Comunque, l'industria che in qualche modo si possa sviluppare anche di alta tecnologia un po' ovunque ci sia degli imprenditori che abbiano voglia, capacità di farlo, lo dimostra il fatto che noi non è che siamo in un parco ipertecnologico d'Italia, siamo in mezzo alle montagne dell'Appennino. Ecco, la cosa interessante è che suo suocero e poi lei, in mezzo alle montagne dell'Appennino, in quel di Arezzo, avete fatto un'azienda super high tech di cavi per i dati e per l'energia, con la bellezza di 130 milioni di euro di fatturato, confrontandovi con competitor internazionali pazzeschi. Io sono affascinato da questa storia. Beh, credo che sia una storia tutto interessante. Ringrazio nuovamente Della Corte di aver avuto fiducia in noi, l'ENEA, e in pratica noi siamo andati a svolgere un prodotto, a fare un prodotto e a confrontarci con americani, con giapponesi, coreani, russi, e devo dire la verità, siamo stati quelli che in questo progetto hanno, mi parlo del progetto ITER, hanno terminato per prima e con un buonissimo risultato il loro lavoro, per cui non siamo sicuramente secondi a nessuno. Certamente, ma voi siete anche coinvolti nel DTT? Sì, adesso speriamo, perché DTT c'è tutta la procedura della gara di questi superconduttori che dovrà essere bandita, noi parteciperemo e abbiamo le attrezzature più che sufficienti per poter partecipare e spero per vincere, per cui è un'altra partita, la giocheremo al meglio. Senta Della Corte, ma il DTT porterà 500 milioni di investimenti in Italia, poi con un effetto moltiplicatore, giusto? È giustissimo, perché quello creerà un indotto economico che si stima in 10 volte quello che verrà speso negli 10 anni che verranno a seguire. Lei immagini tutti i ricercatori che vengono qui in Italia per fare gli esperimenti con la nostra macchina, e tutto quello sviluppo tecnologico che ci sarà, che porterà ad altri tipi di commesse sicuramente. Infatti ho fatto prima la lista delle aziende coinvolte, è assolutamente interessante. Io temo, ma lei mi rassicura che ci sarà poi tutta la folla degli ecologisti, dei protestatari, di quelli che credono nelle scie chimiche, di quelli che ce l'hanno con i robot, che faranno un casino su questo, e noi in Italia siamo bravissimi a dare retta e rendere importante il primo scemo che parla. Ma lei che dice, Bregagni, c'è da temere questo? No, io credo che in questo caso sia abbastanza facile convincerli che tutte quelle che sono le paure sono semplicemente delle paure inconsulte. Sono perché... delle folle. Dobbiamo purtroppo chiudere perché il tempo è tiranno. Buon sabato a tutti, ci sentiamo sabato prossimo. Io dico e ripeto, viva le fabbriche, viva i robot e viva l'acciaio. Buon sabato.